Cosa? Senza antenna, Edo. Ti stavo chiamando senza antenna. E qua si sfila. Ero con Pomponio mi sul pianere, poi c'è questo Mario. Ma schiacchi, viene tu, insomma tu chi è? Non interessa a me Pomponio. Ehi, non c'è nessuno ancora in radio. Io sono agli arresti domiciliari. Non sto più scendo, sono in pigiama a barba lunga. Sai cos'è, Sassari? Non ho più niente. Per me Sassari è morta. Non c'è niente di quello che cerchi, non... i prezzi sono alti. Non schifo a Sassari. Occhio. Vabbè, continua a parlare lì, non c'è problema, Marco. Già sono qua in ascolto io. Tanto mi sto alzando. No, vabbè, non posso stare presso a Pomponio, c'ho da fare qua, mi devo vestire, mi devo sparpare. Purtroppo non ho più interesse a uscire, poi dice il coso che sono depresso. E dove vai qua, dove vai? Piazza Italia, ma non ti mandi, con Piazza Castello, mezzo ai milioni. Infatti, mi vuoi andare. Vabbè. Ok, la sto ascoltando con quell'altro zingaro. Quello è uno zingaro, amico suo. O meglio, l'ho visto io di persona. È un uomo di... un anziano, no? Anziano cosa? C'ha 2 anni più grande di me, sembra uno zingaro. Non ho capito cosa fa di attività, che lavoro fa. Sta sempre trafficando in radio. Radio tecnico faceva. Ma il... l'alcol gli ha succhiato il cervello. Come lo sta succhiando l'amico tuo? Anche a lui? Sì, è succhiato. Io l'ho cancellato, non ho tolto il numero di telefono, anche la WhatsApp l'ho tolto, non lo voglio manco sentire parlare. Lascialo dov'è, che faccia quello che le piace. Non lo voglio più sentire manco parlare io, non mi interessa più. Sì, avete avuto battibecchi anche con lui? No, riferimento a quello che mi hai detto tu, non ho avuto battibecchi io. Sì. Voleva, con l'assistopera digitale, voleva sapere l'indirizzo che ne avrebbe comprato tanti e venduti ai cacciatori. Sì, così diventa uno schifo anche il digitale. Ehi, ti ho detto una cosa, io non ti dico più niente. Marco, chiudiamo il discorso qua. Apri gli occhi. Apri bene gli occhi. E cerca di essere più attento alle cose che fa. Forse è meglio. Va bene, dai. Rimango qua in Corix, ok? E io in 27, poi qualcuno entrerà, si spera, dai. E io c'ho tutto acceso, no, non c'è nessun problema. C'ho tutto acceso, questa, l'altra, tutto acceso, anche la 27. Non ci parlo con lui io. C'è qualcuno sul canale monitor? Siamo sul canale 10. Oh, ciao, Cla. Sono a casa di mamma io, però. No, volevo sapere chi c'è sul canale. Siamo io, Franco di Sassari, Franco di Sorso, Capri, Natalino, poi Marco è andato a lavarsi. Ah, ok, ma io sono a casa di mamma, non sono a casa mia. Per cui niente da fare. Vabbè, pazienza, dai. Ci sentiamo domani. Salutami tutti qua. Ciao, ti ringrazio per l'informazione. Ciao. Ciao, giù, va bene.